Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. David Oddone è un nome che ai più dirà poco o nulla, ed in effetti famoso non è. È solo un giornalista coraggioso che con un suo collega del giornale locale L'Informazione ha scritto un libro, Le mafie a San Marino. Le tre torri che alla Repubblica di San Marino servirono per difendersi dagli attacchi dei malatesta, nulla ora possono contro gli attacchi delle infiltrazioni dei casalesi, dell'Andrangheta e di Cosa Nostra. A partire da quelle nel mondo della finanza, abile, consapevolmente o meno, a ripulire o investire i capitali sporchi delle mafie in epocali evasioni fiscali. Gli uni quanto le altre, come afferma il procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, Giancarlo Capaldo, attività criminali. Nulla di nuovo sotto il sole accade anche in Italia. L'arroccamento di gran parte della politica e delle istituzioni sammarinesi sullo strapiombo del Monte Titano ottiene però il risultato opposto a quello dei padri fondatori. Già in epoca romana quelle torri erano un punto privilegiato di avvistamento. Oggi da quelle altezze gran parte della politica e delle istituzioni sammarinesi non riesce a vedere al di là del proprio naso, anche nelle giornate limpide, quando la natura decide di baciare la Serenissima. San Marino, piaccia o non piaccia quel che dico, non può andare avanti così. Non può, solo per fare alcuni esempi, arroccarsi su una trasparenza bancaria e finanziaria antidiluviana. Non può scandire la propria vita politica con una seduta segreta dietro l'altra. Non può vivere con un sistema giudiziario elementare e di base quando l'aggressività delle cosche e del clan necessitano invece di sistemi di intelligence condivisi e di procedure e strumenti al passo con i tempi. A partire da una procura antimafia, da una polizia giudiziaria specializzata e da scambi di informazioni immediati ed automatici con il mondo intero. Buona giornata e a lunedì prossimo.